in English, because it's a little bit easier for me that way, and Fausto will translate. Yeah? Quindi farò il discorso in inglese perché è un po' più facile per me e Fausto tradurrà. Okay. So, as Bhante mentioned yesterday, he asked me to talk to you about a topic that many of you are probably quite familiar with, and this is to do with the hindrances. E quindi ieri Bhante ha parlato di un argomento con cui probabilmente siete tutti a conoscenza, gli impedimenti. So, still it's good to go over it again, because they are particularly strong. They can manifest with some intensity in the first days of a retreat. And this is, I think, for two reasons. One is that the habitual busyness of the mind, the busyness of our daily lives, no longer covers these underlying tendencies. E quindi, però vale la pena di riparlarne perché si presentano frequentemente, soprattutto all'inizio di un ritiro. Questo per due ragioni. La prima è il fatto che la nostra mente è sempre molto affaccendata. Nella vita quotidiana. Nella vita quotidiana. Non c'è più qua. Eh? Uh-huh. So these underlying tendencies have an opportunity to manifest themselves. And the second is that we are developing the mindfulness here, which makes them even more apparent than they normally are. E la seconda è che qui stiamo sviluppando una presenza mentale che rende ancora più evidenti questi impedimenti. So it's good to know that the hindrances are very much a part of our practice. E quindi è bene sapere che gli impedimenti sono una parte essenziale della nostra pratica. We all go through these. Young meditators, old meditators, new meditators, experienced meditators. We all have to deal with them. E tutti li attraversiamo, tutti dobbiamo affrontarli, meditatori giovani o vecchi, meditatori novizi o esperti. And in fact they are even explicitly mentioned in the Satipatthana Sutta, which our practice is essentially based on. E il Satipatthana Sutta, su cui la nostra pratica essenzialmente si basa, li menziona specificamente. So in the section on Dhammanupassana, the fourth foundation of mindfulness, one of the groups that we investigate are the five hindrances. E quindi nella sezione sui quattro fondamenti della presenza mentale c'è questa sezione in cui sono elencati i cinque impedimenti. So in what way are they hindrances? In che senso sono impedimenti? It's useful to stop a minute and think about what Vipassana is and what it means. E quindi è utile fermarsi a vedere che cos'è la Vipassana e che cosa significa. So, Vipassana means, literally, seeing from different angles, seeing from different points of view, ways of seeing. Quindi Vipassana significa letteralmente vedere da diversi punti di vista, vedere da diverse angolature. What is specifically meant here is seeing things in the light of the three universal characteristics. So seeing things in the light of anicca, dukkha and anatta. E specificamente vedere le cose alla luce delle tre caratteristiche dell'esistenza, quindi alla luce di anicca, dukkha e anatta. So another way to think of that is to think of Vipassana as seeing things as they really are. And not as we would make them out to be. E quindi un altro modo di intendere la Vipassana è vedere le cose così come sono veramente e non come vorremmo che fossero. Or even more directly, seeing things clearly, very simply. Yeah? Seeing things clearly. O in modo più diretto e semplice, vedere le cose chiaramente. And the Buddha has given us a kind of metaphor for this. So he mentions a pot of clear water. E il Buddha ci ha dato una metafora per questo, e ha parlato di un un contenitore di acqua limpida, in which you can see your reflection and where you can see through to the bottom. E nel contenitore si può vedere il nostro riflesso nell'acqua, ma anche attraverso l'acqua si vede il fondo. And the hindrances disturb the water in various ways. E gli impedimenti disturbano l'acqua, intorbidano in vari modi. So the clear seeing is lost, and vipassana can't really take place. E quindi la visione chiara è perduta e non può avvenire la vipassana. So what are the hindrances? Quali sono allora gli impedimenti? There are five of them canonically. I'll list them and then we'll just go through them one by one. Canonicamente ce ne sono cinque che adesso elencherò. So there's sensual desires. Quindi desideri sensuali. There's ill will and aversion, malevolence, ill will and aversion. Quindi malevolenza e avversione. There's sloth and torpor. Quindi torpore e pigrizia. There's restlessness and worry. L'inquietudine e la preoccupazione. And finally there's skeptical doubts. E poi il dubbio scettico. So we'll just look at them one at a time. Quindi li esamineremo uno per uno. So the first is sensual desire. And the Buddha, in the metaphor, likens this to the pot of water stained by colored dyes. Il primo è il desiderio sensuale, e il Buddha lo paragona all'acqua nel contenitore, tinta da tinture, quindi che prende un colore a causa di tinture che vengono sciolte nell'acqua. Like seeing the world through tinted glasses, yeah? Like calling the senses. Quindi noi parliamo di vedere il mondo attraverso lenti colorate. So, the sensual desires is a wide range here, and Bhante has been talking about desiring very much in the context of eating, for example. Il desiderio sensuale copre una vasta gamma di desideri, e Bhante ne ha parlato, per esempio, in riferimento al desiderio del cibo. So, as far as what happens in a retreat is concerned, we come to a retreat, and then many of our habitual modes of seeking pleasure are no longer available to us. E durante un ritiro molte delle nostre modalità abituali con cui cerchiamo il piacere non sono più disponibili. So, no telephone, no internet, no computer, no cinema, no going to the bar, no conversation with friends. So, okay, yeah? Quindi niente telefono. Left a bit bereft, yeah? Niente internet, niente andare al bar, niente conversazioni con gli amici, e rimaniamo un po' deprivati. And the mind, this desire is a very primal force in the mind, so it'll find other ways to express itself. Ma questo desiderio è una forma molto primaria nella mente, e quindi trova altri modi di esprimersi. So you might see this in like things like desire to think, or desire expressing itself through elaborate fantasies. Si esprime attraverso il desiderio di pensare o di fare elaborate fantasie. And here you can really feel the attachment, the sticky. It's difficult to pull the mind away. It really wants to be there. Really wants to be lost in these dreams. E quindi qui vediamo proprio l'attaccamento, la mente è quasi come se fosse appiccicosa, vuole rimanere a queste cose, quindi è difficile staccarla da queste abitudini. In fact, the stickiness is mentioned in the texts like a piece of meat stuck to a pan, you know, so like a steak stuck to a pan and then you have to like peel it off, so that's the same kind of thing, like velcro, yeah? Anche nei testi si parla proprio di un pezzo di carne appiccicato a una padella, che deve essere staccato, quindi è come un velcro che va tirato via. The stickiness of desire. L'appiccicosità del desiderio. And then you can also find it in other ways, like the desire to look. You're doing walking meditation and then suddenly you're looking at the landscape. Or you're looking to see what the other meditators are doing. C'è anche il desiderio di guardare. Durante la camminata ci si ritrova a guardare il paesaggio oppure a guardare quello che fanno gli altri meditanti. Or in a sitting, seeming like the hour should be up, and desire to look at the clock. So strong this, you can feel it like. So this energy, this wanting. Durante una seduta, quando ci sembra che il tempo debba essere scaduto, il desiderio di guardare l'orologio, possiamo sentire proprio la forza di questo desiderio, no? Di questa. So the desire to read. How many times do we look at the schedule? We just have to keep reading that. Il desiderio di leggere. Quante volte guardiamo il programma? Or we read the notices at the entrance board. Like again and again, right? It's like the mind is just looking for a way out of this bubble. E quindi è come se la mente cercasse un modo di uscire da questa bolla. And so you can feel that, you can see it, yeah? You can see it working. It's more or less subtly. È una cosa che si può vedere, sentire, può essere più o meno sottile. So it's good to be aware, okay? This is desire. And it's a disturbance. It's taking me away from the present moment. It's taking me out of mindfulness. Quindi è opportuno vedere che questo desiderio ci porta via dal momento presente, ci porta via dalla mindfulness. And then there's something else very important to see here. We usually associate desiring with pleasure. So a habitual way of making ourselves happy, as Bhante says. E c'è anche un'altra cosa importante da notare, è che di solito associamo il desiderio con il piacere, quindi con la ricerca di un modo di renderci felice. But is it really pleasurable? So, first thing to notice is that desire often arises because there's some sense of discontentment with what is there right now. La prima cosa da notare è che il desiderio spesso sorge perché c'è un senso di scontentezza rispetto a quello che c'è. Some sense of lack or incompleteness or some sense of something missing or even just slight boredom or so there's something unwholesome, unpleasant underneath. So already it's rooted in something that is not pleasurable. Quindi un senso di mancanza o anche solo di noia, di mancanza. E quindi questo desiderio è radicato in un qualcosa di non salutare, in qualcosa di non salutare, non piacevole. Di non salutare, di non piacevole. And then the desiring itself. Sometimes maybe you find this at the dining table. You're eating and you seem to be eating normally. And then suddenly there's a taste that attracts. And now you're, without even really being aware, you're starting to eat faster. Because you're already thinking, what I've got is not enough. So this more that Bhante talks about is in the mind already. And now it's driving you through the meal. It's pushing you. You're accelerating. You're already beginning to look like how much of that is left on the table. And do I need to get up and take some right now or can I finish first? Quindi mangiando, ci capita di mangiare normalmente e poi qualche gusto particolarmente buono ci coglie e inconsapevolmente acceleriamo e cominciamo a mangiare più in fretta e cominciamo anche a guardare per dire ma ce n'è ancora abbastanza, voglio prenderne ancora, posso finire e poi andare a servirmi o è meglio che vada a servirmi subito prima che finisca e inconsapevolmente acceleriamo il ritmo in cui mangiamo. Of compulsion, and it's also a sense of being constricted. You can feel this in the heart. It's like the heart is gripped, and it's really quite the opposite of being easy, at ease, peaceful, free. It's totally the opposite. And the other curious thing is that this taste that has excited the desire, now the desire is driving you ahead of the present moment. And so you're no longer tasting. Quindi you're already ahead of yourself. c'è un senso di costrizione, di compulsione, quindi è l'opposto dell'apertura, e c'è anche questo fatto che il desiderio, cioè questo gusto che ha stimolato il desiderio, all'inizio il gusto ha stimolato il desiderio, adesso il desiderio ci guida, ci trascina, quindi non stiamo più veramente gustando, siamo già nel futuro. And so the very pleasure is lost in the pleasure, in the seeking pleasure. The pure taste of the food is lost. You don't have it anymore. It's gone. Quindi nella ricerca del piacere in realtà perdiamo il piacere del cibo che stiamo gustando. So it's rooted in something unpleasant. It is itself unpleasant. And then what happens at the end? Maybe briefly we are satiated, but often there is a sense of emptiness that accompanies gratification. Quindi è radicato in un senso di spiacevolezza, è in sé spiacevole, e poi alla fine ci lascia con un senso di vuoto. Spesso. And what happens then if you don't get what you're desiring? So you're looking at the table, more, more, more, somebody comes and takes the last piece. Okay. Frustration. The Buddha says grief, lamentation, beating your breast. Okay, so. E poi alla fine c'è anche la frustrazione se quando andiamo per servirci qualcuno ha preso l'ultimo pezzo che noi volevamo, c'è appunto questo senso di mancanza, lamentazione, frustrazione. So, the whole thing is fraught with suffering. The whole thing, from start to end. Quindi dall'inizio alla fine è una sofferenza. Second noble truth, craving is the source of suffering. So, seconda nobile verità, quindi la fonte della sofferenza. So, that's the first one, yeah? The second one, the second of the hindrances, is the other side of the coin. Secondo impedimento è l'altra faccia della moneta. So, this is, so if desire says, I want, then aversion says, I don't want, right? Se il desiderio dice io voglio, l'avversione dice non voglio. So there's a wide range here too. So several states come under this. So we have irritation or frustration or disappointment as kind of mild states of aversion. Then we have anger or... Quindi anche qui c'è un'ampia gamma, irritazione, frustrazione, delusione o anche rabbia. Then there's things like sadness or fear. Tristezza, all, paura. All aversive states. So there's a wide range here. Tutti stati avversivi in questa ampia gamma. In the context of a retreat, it may happen that we develop what is called the yogi mind. Perhaps you've heard of this. Nel contesto di un ritiro può accadere che sviluppiamo quella che si chiama la mente yogi, mente dello yogi. So, that is to say, with very little, we don't have so much here, we get attached nonetheless to our very little. Qui non abbiamo molte cose, ma ciò nonostante ci attacchiamo a quel poco che abbiamo. So, maybe we get attached to our place in the meditation room, or we get attached to our walking path. Per esempio, al posto nella sala di meditazione, o al sentiero che percorriamo nella meditazione camminata. Or maybe finally the mind starts to settle down, some calm enters, and we get attached to that. Oppure quando la mente comincia a stabilizzarsi e troviamo la calma, ci attacchiamo a questa calma. Then if anything disturbs the calm, okay. Anger arises, and really surprisingly strong and sharp. Yeah? E se qualcosa disturba questa calma, sorge una rabbia sorprendentemente forte e acuta. So it may happen that you find yourself suddenly in a kind of irascible state. Quindi potreste ritrovarvi in stati d'animo irascibili. And then the tendency is to point the finger, no? That person is too noisy. That person stole my meditation path. That person is not mindful enough. La tendenza è appunto dare la colpa a qualcuno, quella persona fa troppo rumore, quell'altro mi ha occupato il sentiero di meditazione, quell'altro non è abbastanza consapevole. So you might want to become aware that the irascibility is here, huh? It's not out there with anybody else. Source of it. Ed è necessario vedere che la fonte dell'irascibilità è vostra, non è all'esterno. So, becoming aware of anger, becoming aware of frustration, irritation, irritability. Quindi diventare consapevoli della rabbia, della frustrazione, dell'irritazione. So, anger also wants a victim, wants a trial. So it will indulge in fantasies of persecution or revenge or other things, even mild forms of it, but okay, it will indulge. La rabbia vuole anche una vittima, quindi indulgerà a fantasie di vendetta o di persecuzione, magari in forma moderata, però le coltiverà. So you need to be aware, this anger here, this is a hindrance. Quindi è bene esserne consapevoli, questa è rabbia, questo è un impedimento. So, also, it's interesting to know how anger is. So, in the text they say the characteristic of anger is savagery. Nei testi si dice che la caratteristica della rabbia è un carattere selvaggio. Yeah, feroce. Feroce. Yeah. Okay. Ferocità. Ferocia. Ferocia. And the it functions, and this is very useful to know. It functions by burning up its own support. Il modo in cui funziona è che brucia il proprio sostegno. So it, by its own support we mean here are the body mind. Il sostegno è il vostro corpo mente. So you can really experience anger in the body. Feel what that feels like. Quindi si fa esperienza della rabbia nel corpo, la si sente veramente. You might experience it as a kind of hardness in the heart or hardness in the mind. Come una sorta di durezza nel cuore o nella mente. Heat. It's a very corrosive state. Calore, è uno stato molto corrosivo. And in the texts it's described as an angry person, it's like, or becoming angry, is like throwing a hot coal at somebody. Right? Like expressing anger is like throwing a hot coal at somebody. Quindi nei testi si dice che esprimere rabbia è come gettare contro qualcuno un carbone ardente. But who gets burnt first? Ma con la mano, ma chi si brucia, chi si scotta per primo? So. Okay, yeah? Be aware, anger is here. Quindi siate consapevoli che la rabbia è qui. And don't let it proliferate. Otherwise it'll burn your house down. Non lasciatela proliferare, può bruciare tutta la casa. So, just to be aware of how unpleasant the state is, if the mind becomes aware of the suffering that it is making for itself, then by itself the tendency to indulge weakens. Quindi se la mente diventa consapevole della sofferenza che causa a se stessa, di per sé questa tendenza alla rabbia si indebolisce. It's not that the anger doesn't arise, but at least we stop willfully feeding it so much. La rabbia non smette di sorgere, ma noi smettiamo di volontariamente nutrirla. So the Buddha likens this to a pot of boiling water. E il Buddha paragona questo a un pentolone di acqua bollente. Okay. So that is the second of the hindrances. Ed è il secondo impedimento. Okay. So the third one is sleepiness. Il terzo è la sonnolenza. Formally there are two states here, sloth and torpor. Quindi formalmente si parla di sloth, cioè di pigrizia e di torpore. And so, but basically the idea is that they are both characterized by a certain lack of energy. Ma entrambi fondamentalmente sono caratterizzati da una certa mancanza di energia. They manifest as kind of sluggishness or heaviness or dullness or, in the case of torpor, is sleepiness. Quindi si manifestano come un certo ottundimento, una certa difficoltà a muoversi, e nel caso del torpore è proprio sonnolenza. So, useful to know that many famous meditators suffered with problems of sleepiness. Ed è bene sapere che molti famosi meditanti hanno sofferto, hanno avuto problemi con la sonnolenza. For example, the great Tibetan sage Milarepa is said to have meditated in his cave with a butter lamp on his head to keep himself awake. Il famoso saggio tibetano Milarepa si dice meditasse nella sua grotta con una lampada a burro sulla testa, accesa, per costringersi a rimanere sveglio. And the Buddha's second chief disciple, Mahamoggallana, couldn't stay awake for the first several days of his practice. E il secondo discepolo del Buddha, Moggallana, non riusciva a stare sveglio nei primi periodi della pratica. And the Buddha had to come and give him specific instructions about what to do. E il Buddha ha dovuto dargli istruzioni specifiche su come fare. So, okay, we all suffer from it, even the great ones. Quindi anche i grandi ne hanno sofferto. So what were the instructions that the Buddha gave? He gave several specific instructions to Moggallana. Perhaps we can just look at these. They are quite logical. Quindi il Buddha ha dato diverse istruzioni specifiche a Moggallana che potete seguire, sono logiche. So the first important one is not to surrender to sleepiness. La prima importante è non arrendersi alla sonnolenza. So the sleepiness starts to say things like I'm wasting my time or it's useless or I'm not meditating or what's the sense or let me go and take a nap or something of this sort starts. Better not to pay too much attention to this. E quindi è meglio non fare troppa attenzione, dar retta alla sonnolenza quando dice sto sprecando il mio tempo, dovrei andare, meglio andare a fare un sonnellino, eccetera. So there are two fundamental ways to work with sleepiness. Ci sono due modi fondamentali per lavorare con la sonnolenza. One is you work with it directly. And the other is in a kind of roundabout way. Il primo modo è lavorarci direttamente e l'altro è invece un modo indiretto. So the directly is not, it's, well, so, sleepiness comes. It usually comes as a friend. So you're sitting, mind gets very peaceful, very relaxed, and then... Quando arriva la sonnolenza, di solito arriva come un amico, perché state seduti pacificamente, la mente è molto rilassata e di colpo si crolla. Suddenly this heaviness, now you can't lift your eyelids even, so heavy. So sleeping deeply. Una tale pesantezza che non si riescono neanche a tenere le palpebre sollevate. Okay, so here directly very difficult. Here directly very difficult. Affrontarla direttamente è molto difficile. So directly means you see the sleepiness coming. You catch it in the early stages of it, right? You're not fooled. You see, okay, this softness, this, I have to be careful now. I know him. Direttamente significa che la vediamo arrivare nei primi stadi e non ce ne facciamo ingannare. So this not being fooled by it is very important. Then you can catch it directly. If you catch it directly, then you do certain things. So you straighten your posture and you may just note it. Sleepy, sleepy, sleepy, sleepy, sleepy, sleepy. Right there. And if it goes well, it may just clear off. And that's a wonderful moment, yeah? Quindi se la cogliete direttamente, potete, appunto, non ne siete sorpresi e, per esempio, raddrizzate la postura e cominciate a dire sono lento, e potrebbe svanire. The mind gets really bright and clear. Quite a transformation. La mente diventa chiara, brillante. when it gets heavy, then you may take a long time. You may have to go sleepy for a good 10 minutes before something happens. But also worth trying, huh? Okay. A volte invece può darsi che sia necessario andare avanti per 10 minuti a mettere questa etichetta prima che succeda qualcosa, ma vale la pena di provare. Another way, and a roundabout way, is that you start to move the mind in the body. And you lift the energy by increasing the number of objects that you are observing. Un altro modo è di spostare la mente nel corpo e cominciare a smuovere l'energia aumentando il numero di oggetti che si stanno osservando. So, instead of watching the rising falling, which almost disappears when you're very sleepy, very difficult to catch it, you pick more obvious sensations. So you take the touch points, for example. Invece di osservare l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, che quasi scompare quando si è molto sonnolenti, si scelgono oggetti più grossolani. Più grossolani. Come i punti di contatto. I punti di contatto del corpo. Touch points, no? So you pick three of them, maybe, right? Maybe you pick your hands, and you can pick your two buttocks, or you can pick your knees, or wherever the sensations are. And then very systematically you try to move your mind from touch point to touch point. Just bring your mind to the point there, try to catch as best as you can what's happening, and then after a few seconds move it to the next point and try to see what's happening there. Quindi se ne scelgono tre, ad esempio le ginocchia o le natiche, eccetera, e si muove la mente, l'attenzione da una all'altra cercando di cogliere che cosa sta succedendo in ciascun punto. Don't stay too long, the mind will drop off. So you just stay there a little bit and then move. It's the moving of the mind, and you can increase the noting. Increase the noting. So maybe touching, sitting, E quindi non rimanete troppo a lungo su ciascun punto e potete aumentare questa etichettatura, no? Per esempio toccare, sedere, contatto, eccetera. So this is a roundabout way to lift the energy. Questo è un modo indiretto per sollevare l'energia. Sometimes this also doesn't work. E a volte neanche questo funziona. Then open your eyes. Take in the light, open your eyes wide, hold them open, don't try to see anything, it's just important that the light comes in. Quindi aprite gli occhi, teneteli spalancati, lasciate entrare la luce, non cercate di vedere qualcosa di specifico, l'importante è che entri luce. And then you can see if there's a little more brightness there, and then you can close your eyes and go back and see if it's easier. E quando c'è un po' più di lucidità potete richiudere gli occhi e tornare alla. Then, as Bhante suggested today, if that also doesn't work, you can do some standing meditation in the room. E come ha suggerito Bhante oggi, se neanche questo funziona, potete alzarvi e fare una meditazione in piedi nella sala. So just quietly standing up and maybe 5 or 10 minutes do standing meditation. Maybe have your eyes slightly open, because if you're really sleepy and your eyes are closed, you may fall. 5-10 minuti di meditazione in piedi con gli occhi semi aperti. So just looking down at your feet, not looking around. Guardando i piedi e non senza guardarsi attorno, perché. And then you can use the walking meditation. Maybe do 10, 20, 30 minutes of brisk walking up and down, just to wake yourself up. E poi potete usare la meditazione camminata andando su e giù per 20-30 minuti in maniera piuttosto vivace. So don't give up with sleepiness, work with it, that's the main thing, you work with it, and the more you work with it, the easier it becomes. Quindi non arrendetevi alla sonnolenza, lavorateci, più ci lavorate più diventa facile. And usually after two or three days it clears off. It's not such a problem anymore. E di solito dopo 2 o 3 giorni svanisce, non è più un problema così serio. But it may come back, I don't know, after your concentration gets better, mind gets calm, after lunch it may come back again. So you have to just keep working with it. però può tornare quando la concentrazione è migliore, la mente si calma, oppure dopo pranzo ritorna e quindi bisogna ricominciare a lavorarci. So, okay, that's sleepiness. Yeah? The Buddha likens that to a pot of water choked with weeds and algae. Yeah? Mm-hmm. Okay, it's the state of sleepiness. Yeah? Il Buddha paragona la sonnolenza a una pentola d'acqua piena di alghe e di erbe. Okay. So, the fourth of the hindrances. And that's the opposite here. And we're talking about restlessness and remorse. Il quarto impedimento è l'opposto, e qui parliamo dell'inquietudine e del rimorso. So, here there's a certain excess energy. C'è un'energia, una sorta di energia in eccesso. So, the mind is running. You know, the mind is running, it's hard to stop. It goes from object to object to object. La mente corre da un oggetto all'altro ed è difficile fermarla. Or in the case of remorse, it may just keep running in a circle. Or in the case of worry, it may keep running in a circle. Right? Hard to stop that also. Nel caso del rimorso o della preoccupazione, corre in cerchio. Keeps on circling around the same thing. Continua a correre intorno alle stesse, sempre alle stesse cose. So, here, the worst thing that you can do is get agitated. La cosa peggiore che potete fare è agitarvi. Because that just makes everything much worse. One of our teachers, Hannes, gives the example of like ashes, right? So there's ashes everywhere, and if you start flapping your hands to bring them down, they just fly more, right? So best thing to do is to do nothing. Qualcuno, c'è un paragone con delle ceneri che nell'aria, se cominciamo a scuotere le mani per farle andare giù, peggioriamo le cose, quindi la cosa migliore è stare tranquilli. So, the best advice I can give you about restlessness is to get off the thinking mind. Il miglior consiglio è uscire dalla mente pensante. And come into the body. Come into the body and really feel the restlessness there, in the area of the heart. Venire nel corpo e sentire l'irrequietezza nell'area del cuore. And it can be very, very uncomfortable. It can be very, very uncomfortable. So the tendency is to want to rush off again. Può essere molto scomodo, quindi la tendenza è quella di scappare via di nuovo. So you have to really, really make an effort with that. You have to really make an effort to stay there. It can be experienced as a sense of pressure or suffocation or a kind of tension there in the area of the heart, kind of dense vibration, subtle burning. The subtle burning can be quite interesting, but also quite difficult. Quindi se ne può fare esperienza come una tensione o una vibrazione o anche una pressione o anche una sottile come un bruciore. Something between an itch and a burn. It's quite subtle. It's quite interesting. But it's also quite difficult. It's like you want to do something. It's like you know. It's got that sense of wanting you to do something about it. Qualcosa che avete la sensazione che dobbiate fare qualcosa. So just be there with it. The best thing you can do. Mentre la cosa migliore è semplicemente restarci insieme. So if you can be there with it and really experience it, then as Bhante says, if you can just be there right till the end of it, then there's immense relief at the end of that. You can really feel the burning off of that restlessness. E come dice Bhante, se ci rimaniamo insieme fino alla fine, si prova un grande sollievo quando questo bruciore si esaurisce, no? Si brucia da solo. And you have to be careful here, because the restlessness, if you're in the body and you're watching there, it will start to ease. And then when it starts to ease, you think, okay, I can relax now. And then the mind will run off again and build up again. Okay, so. E bisogna fare attenzione, perché se noi ci stiamo insieme comincia a diminuire. E allora la tendenza della mente è immediatamente cominciare a pensare, a scappare, andare da un'altra parte. And then it poi aumenta di nuovo. Avanterà di nuovo. Okay, so with worries and remorse, sometimes it's necessary to intervene. Con le preoccupazioni a volte è necessario intervenire. So if you find yourself obsessively worrying about something outside of the retreat, for example. Se ad esempio vi trovate a preoccuparvi ossessivamente di qualcosa che è esterno al ritiro, and it may be useful to recognize that in any case now you can do nothing about it. Forse è utile riconoscere che al momento non potete fare nulla. And then Bhante often tells this story about how if you just put aside the worry, just put aside the problem, and carry on with your practice, just carry on developing the qualities of mindfulness and concentration. Quindi Bhante spesso dice che se mettete da parte la preoccupazione e continuate con la vostra pratica di concentrazione, consapevolezza. E di consapevolezza. Then at the end of the retreat, the mind is in a much more wholesome state. And usually the answer to the problem is much more evident. Allora, alla fine del ritiro, la mente sarà in una condizione molto più salutare e la soluzione del problema che ci preoccupava sarà più chiara. Sometimes it just comes up by itself. You don't need to do anything. Answer is clear. A volte nasce, emerge da sola, senza che dobbiamo fare nulla. So, to put it aside. So, here you need to intervene. And you can do it with your noting. Quindi mettetela da parte, dovete intervenire con l'etichettare. And you can also note it. You can note it as worrying, but if it's obsessive and it continues, then you can do something a little more determined than that. So you can just note as maybe Bhante Vivekananda says, just note as not now. Quindi potete etichettarla come preoccupazione, ma se continua potete usare qualcosa che Bhante Vivekananda dice non ora, non adesso. Not now, or later. Dopo, later means più tardi. After the retreat is done. Quando sarà finito il ritiro. So if you do this a few times, then maybe it becomes possible to cut that obsession with the thinking. E se lo fate ripetutamente può essere possibile proprio tagliare questa ossessione. So this is, you need to intervene sometimes. Quindi qui c'è bisogno di un intervento attivo. Also sometimes if there's kind of persistent restlessness around a certain sets of things, you might want to see what the underlying state is. E quando c'è un'inquietudine che riguarda un insieme di cose, è necessario a volte vedere cosa c'è sotto. See what is driving this? Some kind of anxiety, some fear, some what is driving this? What is energizing this? Cos'è che anima, che dà energia a questa inquietudine? So you just come there and cut off the thinking always. That's just feeding the restlessness. Quindi eliminate il pensiero perché questo nutre soltanto l'inquietudine. And you just come and try to be in contact with the state that is animating. The fear or the anxiety, just be there with that. E cercate di stare in contatto con quegli stati di paura o di ansia che animano l'irrequietezza. Sadness, whatever it is. Tristezza. Just being there with that. Just feeling and knowing that. So that's something else you can do. Quindi questa è un'altra cosa che potete fare. And with remorse, if it is persistent, then Bhante this morning did an exercise with forgiveness, and this is not vipassana, but maybe you take 2 minutes out of vipassana and just try to forgive yourself or forgive the other person, just so the mind can let it go. con il rimorso. Stamattina Bante ha fatto un esercizio di perdono, di perdonare gli altri o perdonare noi. Questa non è vipassana, ma si possono prendere alcuni minuti di stacco dalla vipassana e fare questo esercizio, no? So only this is obsessive, huh? Otherwise better you just experience what is there. You don't solo mix up practices. Solo nel caso che sia una condizione ossessiva, altrimenti è meglio non mescolare le pratiche. But afterwards, even in your room, maybe, you know, 5 minutes before going to bed or when you're doing metta, just if there is this remorse, and you can forgive yourself, and you can try to forgive yourself, you can try to forgive the other person. And see if there's a sense of ease that comes with that. Ma anche dopo, in stanza, facendo metta, se c'è questo rimorso, si può fare questa pratica di perdonare noi stessi o perdonare gli altri e vedere se c'è un senso di sollievo che ne deriva. And maybe the mind is ready to let it go. E forse la mente sarà pronta a lasciare andare. So, this is the fourth. And the Buddha likens that to of the water being whipped by the wind. E questo quarto impedimento viene paragonato dal Buddha all'acqua agitata dal vento. And so finally we come to the last of the obstacles. And this is skeptical doubts. L'ultimo è il dubbio scettico. And the Buddha likens this to a pot of muddy water. Che Buddha paragona a una pentola di acqua fangosa. So, mind is in a state of confusion, huh? La mente è in uno stato di confusione. Okay, so, doubts arise. And then, it puts everything into question. Sorge il dubbio e, appunto, mette tutto in questione. So, begin to question the teaching, begin to question the method, begin to question your own capacity to do the practice, begin to question the goodness of the practice. Begin to question everything. Comincia a mettere in questione l'insegnamento, il metodo, la vostra capacità di fare la pratica stessa, mette tutto in questione. So, you have to be careful here, huh? If you start to get caught up in this thinking, it'll lead you home. E se venite catturati da questo modo di pensare, vi condurrà all'abbandono, a tornare a casa. So, just it's just thinking, huh? There's no reason to believe in it. Just thoughts. Sono solo pensieri, non c'è motivo di crederci. So also to understand that doubts have arisen, not accidentally, but they've arisen because of specific sets of conditions. Ma è utile capire che i dubbi non nascono accidentalmente, ma a causa di specifici insiemi di ragioni. And mostly those sets of conditions are the other hindrances. Di condizioni, e queste condizioni spesso sono altri impedimenti. To say that things are not easy, right? I mean, that you come here, you think, okay, I'll get a little bit of clarity and a little bit of calm and a little bit of understanding, and then instead the mind is all over the place, or you're sleepy or heavy, or there are judgments or boredom, and you think, what is happening? Quindi siete venuti cercando un po' di calma, di pace, di serenità, invece la mente se ne va dappertutto, e di qua e di là, e quindi. So, doubts arise. E quindi sorgono i dubbi. Naturally, they arise. Okay. Sorgono naturalmente. Oh, okay, just to be aware, huh? Ne siamo consapevoli. And you note them. Doubting. E notiamo che questo è dubbio. So, once you bring it into the light of awareness, okay, it's not undermining your practice anymore. Una volta che il dubbio è alla luce della consapevolezza, non mina più la pratica. So, it may be necessary to just say, okay, doubts are there, difficulties are there, but I continue. E quindi può essere sufficiente dire, ok, ci sono i dubbi, ci sono le difficoltà, ma io continuo. And usually what happens is that you continue and your mindfulness builds up, your concentration builds up as you do the sittings and the walkings, and these are very wholesome states, and the hindrances begin to recede. And then the doubts subside by themselves. E quindi quello che succede è che continuando si accresce la concentrazione, si accresce la consapevolezza, che sono stati molto salutari, e gradualmente i dubbi recedono. Okay, so you don't have to do anything about the doubts. You don't have to be in conflict with them. Quindi non è necessario fare qualcosa contro il dubbio, non è necessario entrare in conflitto. Okay, just be aware that they are there. The awareness is half the work. Ma semplicemente siate consapevoli che ci sono i dubbi, e la consapevolezza è già metà del lavoro. Okay, so these are our five canonical hindrances. Quindi questi sono i cinque impedimenti canonici. And so it's good to know that they really do belong to the practice. Ed è bene sapere che sono parte integrante della pratica. And these are very, very deep underlying tendencies in the mind. Sono profonde tendenze insite nella mente. So only an anagami in the third stage of enlightenment is free of greed and hatred. Quindi soltanto un anagami nel terzo stadio di illuminazione è libero da avidità e di odio. Avidità e odio. So that's a very long way away, huh? Ed è okay. Un traguardo molto lontano. Okay, so they're there in the stream of consciousness, and so you have to work with them. Sono presenti nel flusso di coscienza e quindi occorre lavorarci. Restlessness, only an arahant is free from restlessness. Solo un arahant è libero dall'inquietudine, dall'intranquillità. Okay, so all right, we're going to work with these our whole lives long, huh? E quindi ci dovremmo lavorare per tutta la vita. Okay, so the main thing is to bring them into the light of awareness, right? So they are not. They're not undermining you. La cosa principale è portarle alla luce della consapevolezza, in maniera che non lavorino in maniera sotterranea. And then really, really accept them. Really see what they are made of. Really, really try to understand. It's an opportunity to really understand your own mind. E accettarli è un'occasione per capire veramente il funzionamento della vostra mente. And the more you do this, the more skillful you become, the more able you become to deal with them. E più lo fate, più diventate abili ad affrontarli. And then the less of a problem they are. So sleepiness is a reason. Okay, I know what to do. Restlessness is a reason. Okay, I know what to do. E meno saranno un problema. Quando sorge la sonnolenza, ok, so che cosa fare. So becoming skillful. And as we become skillful, then there's more space in the mind for other more wholesome qualities to develop. Quindi diventare più abili. Diventando abili si crea più spazio nella mente per altri stati più salutari, perché si possano sviluppare altre condizioni più salutari. And really, if you think about it, that is our practice. That is the whole of our practice. E se ci pensate, questa è l'interezza della nostra pratica. We're moving from states of greed, hatred and delusion in which the mind is principally rooted. E ci spostiamo da condizioni di avidità, avversione e confusione, in cui la nostra mente è profondamente radicata. Towards more wholesome states, right? Towards greater and greater wholesomeness and purity of the mind. So more mindfulness, more concentration, more effort, more energy, more wisdom, more faith. Verso stati più salutari e più in cui c'è più saggezza nella mente, c'è più saggezza, più consapevolezza, concentrazione, energia, okay. Gioia, calma, fede, equanimità. Okay? So this is what we are doing here. E questo è ciò che facciamo qui. Okay. So I think I've said enough about this. Penso di aver detto abbastanza sul tema. So let me conclude by wishing that you become more and more skillful. Quindi vorrei concludere augurandovi di diventare sempre più abili. In dealing with these difficulties. Ad affrontare queste difficoltà. And that your skillfulness leads you all the way to the realization of Nibbana. E che la vostra abilità vi conduca fino alla fine della via verso il Nibbana. Ok, thank you. Thank you for listening. Thank you. So, walking meditation.